Sergio, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Io volevo dire una storia un po' particolare. Siccome io sono un ex vigile del fuoco e all'incirca alla fine degli anni Ottanta avevo assistito al rientro di una squadra in caserma. Non ero andato io personalmente, dove un intervento è durato più di 10 ore perché un signore, per provare emozioni particolari, aveva infilato il suo coso all'interno dentro di un tubo di una decina di centimetri. Se noi Beh, non era sappiamo. poi tutta sta gran cosa alla fine. Beh, no, però il problema qual No, c'era. era? Ma Che quelli dell'ambulanza del 118 non riuscivano a risolvere il perché il tubo problema. era ancorato all'impianto idrico di una casa? Come funzionava? No, Perché questo tubo era un tubo libero con due estremità. se uno. Beh, Lui. si tirava sui pantaloni col tubo e tutto, se ne andava all'ospedale. Qual era il problema? Perché E no, chiamare i il pompieri? problema è che sono andati all'ospedale la squadra perché non riuscivano a arrivare Ma i al. pompieri che attrezzi avete voi per liberare? Infatti è durata una decina di ore. Ma con C'era che? Con la fiamma ossica? Penso una cosa no, con chirurgica. no, con un lavoro certosino di seghetto bagnato in maniera particolare per non fare questa per non fargli male, ma questa qua era una cosa Sembra che. Mary per sempre. Ci hanno fatto anche un film. No, scusate. Tutti pazzi per Mary. Ecco, tutti pazzi per Mary. Ecco, c'è qualcosa. Ma è Sì, vero, anche. poi. C'è un signore che tira su l'accendera lampo in maniera impropria. Vengono i pompieri, i vigili del fuoco e Sì, tutto. ma io ne posso raccontare anche delle Sì, altre. ma lei Per esempio. ha contezza che si tratti di cretinate assurde. Lei ci ha creduto veramente che i suoi colleghi sono andati con Sì, eravamo proprio testimoni tutti in caserma di questa cosa qua, in Cioè, sono risate andati con generali. il camion, con l'autobotte, Esattamente, per un con tubo un. di 10 centimetri che aveva incastrato il microfallo di un signore. Questo succedeva negli anni Ottanta, Eh beh, non. erano anni cupi. Non ho motivo di dubitare.